Paul. Hein? Oui, Abudi. Paul, qui est Paul? Paul. Paul. Qui est Paul? Paul McCartney. Mais qui est? C'est Paul McCartney. Mais qui cache peut-être? On va picher. Brandon. Brandon, Brandon. Brandon. T'as rompé le chanel. Come on, ma perché? Ma chi sei? Io mi sto dando gli auguri. Chi è gli auguri? Auguri chi? Auguri. Auguri, auguri. A me? Ehi, ma chi siete? Paul. Ma chi Paul? Io voglio a Bob, signore. Eh? A Bob. A Bob. Bob. Bob, ma chi è Bob? Bob Dylan. Ma chi è Dylan? Bob, non scherzate sempre. Ma chi sei? Ma come quante volte ve lo devo dire? Eh? Sono il consigliere di Cassius. Pronto? Pronto? E dai, non scherzate, io sarei con la donna. Non con. Ma la vita è già morta, c'è un po' che va il mattone. E che le monte, non sbarazzo le volte voli. Pronto? Ma secondo voi se c'è qualcosa di risposta, dai. Ma va a culo! Non si chiude, ma chi è?